Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas. Capitolo quinto. Dove Raymond crolla, Jules fa il prete, Octave uccide e Victor ci va di mezzo. L'assassinio di Thais venne scoperto la mattina del 3 gennaio. La signora Brun, merciaia vicina di Moreau, stupita di veder la casa così silenziosa, mandò a cercare il figlio della signora Arfaux, la governante. Batterono alla porta, senza risultato, chiesero l'aiuto d'un fabbro ferraio, avvertirono la polizia ed entrarono. Il giorno dopo tutta Parigi non parlava d'altro. Dissoluto, feroce o cinico, a seconda dei giornali, il crimine in ogni caso non poteva essere che anarchico. Signora Dragon si recò in Quai d'Orfèvres a raccontare come fosse stata avvicinata per la strada. Riconobbe senza esitare la foto di Madge e di Caroui. Madge venne arrestato il giorno seguente. Sapevano dove trovarlo, come la sua povera Barb che si mise a correre quando la vollero arrestare. Non erano dei geni, né l'uno né l'altra. Al Quai d'Orfèvres rimasero persino confusi per le spiegazioni isperate che Madge diede. Sì, aveva rubato, a Pavillon-sous-Bois. Thais no, sicuramente. Storia delle impronte digitali. Che avrebbe lasciato, niente da fare, non ci credeva. Era magia. Si rendeva almeno conto di aver agito male? Non era bene assassinare la gente a martellate. Allora gli uscì dal cuore questo grido. Ma voi non capite allora. Barba è malata, molto malata. Un male che non perdona. Siete voi forse a pagargli le medicine all'ospedale? Il parallelo tra una bretone che la società rifiutava con legittimi motivi di prendere a carico perché non aveva denaro per farsi curare, e dall'altra parte un crimine feroce sembrò a Juin assolutamente aberrante, ed egli inviò, senza esitare, Madge a riflettere in carcere sui misfatti della violenza, se impiegata al di fuori delle guerre coloniali. 50 anni più tardi siamo più civilizzati, una quindicina di psichiatri sarebbero venuti a tastare il suo rozzo cervello e avrebbero concluso che era pazzo, aiutati in questa diagnosi da 2 o 3 patologi che non avrebbero mancato di scoprire nel cromosoma XY la causa dei suoi confusi valori. Barb subì la stessa sorte. Un ombrello e un paio di orecchini rubati, trovati nella sua camera, servirono ottimamente da pretesto per la sua incarcerazione. Quanto a Caroui, egli restava inafferrabile. Delle 2.327 lettere di denuncia ricevute da Juin in qualche settimana e tutte le verificate una dopo l'altra, nessuna indicava il suo vero rifugio. E non a caso, Caroui cambiava residenza ogni giorno, aveva 5.000 franchi e 3 Browning in tasca, non si fidava di nessuno. Una crosta di pane e un bicchiere d'acqua gli bastavano per sopravvivere, se necessario. Possedeva tutte le qualità richieste per sfuggire a lungo alle ricerche. L'abile Monsieur Juin, non riuscendo più a trovare un filo conduttore, si dava da fare, mobilitava i suoi spioni, sollecitava i suoi segugi, ripartiva da zero e non diceva niente alla stampa, molto occupata peraltro dalla crisi governativa apertasi il 9 gennaio. Clemenceau aveva ragione, o no, di battere i pugni sul tavolo e far cadere il ministro Caillaux? Mistura di radicali, radical socialisti e socialisti gli sarebbe succeduta? 10 La fabbrica d'armi Smith & Wesson di Rouet-Charras subì un furto. Sparirono 17 pistole, 9 carabine, 6 fucili da caccia con relative munizioni. Il misfatto venne immediatamente attribuito agli anarchici e tra di loro al supposto capo Caroui. Uno spione informò che Edouard abitava a Romainville, al 9 bis di Rue de Bagnolet. Juin vi accorse, seguito dal fedele Colmar, in gamba, con tanto di pelo sullo stomaco. A quell'indirizzo non trovò che un certo Pechon, anarchico, 2 condanne, munito di un arsenale sufficiente ad armare una compagnia. Questa proliferazione di armi diventava inquietante. Bastava ormai che una pietra cadesse su un cantiere, che un'istitutrice perdesse l'ombrello, che scippatori di barriera derubassero un passante. L'immaginazione pubblica si profilava dietro questi fatti la figura terrificante di Karui Fantomas. Non si poteva più andare al bar Musette, passare una notte in una camera ammobiliata o gironzolare per cliché senza correre il rischio di venire arrestati. A riprova alla balera del vicolo Compan a Belleville, una retata della polizia permise di scoprire che su 150 amanti della Java, 29 erano muniti di revolver. Inquieto per tutto questo scompiglio, il trio delle Rue Ordener se ne stette tranquillo per qualche giorno. Octave e Marie traslocarono precipitosamente da Vincennes il giorno successivo all'arresto di Madge. La loro reazione fu provvidenziale. Juin e i suoi uomini li mancarono solo di 24 ore. Raymond, chiuso in una camera, covava con profonda depressione nervosa. Bonneau passava giornate di studio, l'occhio attento alla ricerca del colpo formidabile, lasciando gli altri in attesa del suo segnale. Anche gli innocenti si sentivano braccati. Valet non rientrò più a casa sua. Sudì portò a spasso Maud e Chinette con ancor più attenzione. Rirette e Victor si prendevano la testa tra le mani, costernati alla vista di un carosello così sanguinoso che gli sfiorava di continuo senza che essi potessero far niente per impedirlo. Tuttavia, per un senso d'onore, non deviarono dalla linea che si erano fissati. Riflettendo sulla rivoluzione, facendo servizio di recapito, alloggiando per qualche giorno Jean-Georges, quando Juin la rilasciò, dopo che lei aveva giurato di non frequentare più gli illegalisti e si era ritrovata sulla strada sconvolta per quel che aveva passato. Il solo a trascorrere giornate incantevoli era Dieudonné, perfettamente incosciente di quel che si tramava intorno a lui. Eugene aveva affittato una camera per sé e per Louise al 47 di Rue Nollet, proprio laddove aveva abitato anche Jules. Si faceva chiamare Aubertine e si guardava bene dal muoversi. Gli amici venivano a fargli visita ogni tanto. Non rifiutava mai un aiuto momentaneo. Così, ad esempio, accettò di farsi indirizzare lì da Monnier, da Nîmes, la posta per Raymond. Il 14 gennaio venne costituito il grande ministero nazionale, quello di Poincaré. Titolo dell'Illustration settimanale della borghesia ben pensante. C'è vento brutto, l'orizzonte politico è cupo, è venuta l'ora di affidarsi a piloti sperimentati. Libera traduzione, per non perdere stupidamente dei soldi a pagare i lavoratori, abbiamo messo al potere una coalizione veramente rappresentativa dell'oligarchia finanziaria e industriale che sovranamente governa la Francia da tempo, dietro l'abile paravento del libero gioco democratico. In testa Poincaré, che con Millerand possiede il più grosso gabinetto di affari di Parigi. La loro missione, brandire la bandiera tricolore, ridestare vecchi rancori, attizzare odi spenti, proclamare che la patria è in pericolo, rafforzare l'esercito, approvare grosse commesse di armamenti, firmare trattati di alleanza, eccitare lo sciovinismo dell'opinione pubblica mediante la grossa stampa di informazione, sostenuta da fondi segreti, comprare i responsabili a colpi di prestiti russi e, dato che la guerra è inevitabile, considerare ogni agitazione interna, ogni rivendicazione come un attentato alla sicurezza dello Stato. Riassumendo, trovare una giustificazione ideologica ai mercanti di cannoni. Frattanto, nella notte dal 17 al 18 gennaio, l'officina Firmonge a Romainville subisce un furto. Ancora una volta si accusa Karui. Juin sopporta con impazienza le riflessioni agrodolci del suo capo, Guichard, che non contento di farsi canzonare in tutti i cabaret sotto il nome di Guichard Cuor di Leone, si è fatto tirare le orecchie dal nuovo ministro degli interni, Stig. Dunque raddoppia l'attività e e il 20 gennaio organizza una retata gigante alle idee libere, che si rivela ancora una volta fallimentare. Tra i presi c'è l'Orulò, che sebbene antico teorico dell'illegalismo, non viene trattenuto alla sûreté a lungo. Ci sono dei misteri che è meglio non cercare di comprendere, e soprattutto Marie la Belga, che senza occupazione gironzolava da quelle parti, in cerca degli amici. Come Jeanne è cieca, sorda e muta. Sanno che è l'amante di Garnier. Sospettano quest'ultimo di avere un qualche ruolo nella faccenda, né più né meno d'altronde di qualsiasi altro anarchico per il momento. E la torchiano di domande. Fatica inutile. Sì, vive con lui, perché lo ama, perché è bello, gentile, dolce, bravo, non va mai al caffè ed è un uomo libero, un vero uomo libero. No, non sa dove sia. L'eccellente Marie non mentiva. Jules aveva finalmente dato un segno di vita a Octave. Secondo lui, niente da fare a Parigi per il momento. L'atmosfera era troppo calda. Il problema dei titoli invece lo inquietava. Aveva voglia di fare un giro in Olanda, tanto per vedere. Andarono a trovare Raymond, lo specialista. Inservibile. Gli occhi gonfi, i lineamenti tirati, non dava affidamento e inoltre non ci stava. Ho bisogno di riflettere scientificamente, disse loro. Datemi qualche giorno, non avete che da prendere Carui. Parla fiammingo meglio di me. Carui, facile a dirsi, c'era però da pescarlo. Octave vi riuscì solo dopo 48 ore. Infine, il 19 gennaio, il giorno prima dell'arresto di Marie, si recarono in Belgio. Il 23 erano a Gand. Edouard, partito in cerca di informazioni, tornò con un amico che indicò una automobile da fare in Rue Antony. Nella notte si impadronirono in effetti senza difficoltà della limousine di un chirurgo, il dottor Vernieuwe, e si spinsero guidati da Bonneau in direzione di Amsterdam. Là la situazione non era migliorata. Vandenberg non era riuscito a sbarazzarsi dei Jonks. In compenso trovò un cliente a 8.000 franchi per l'automobile. Conservarono soltanto la superba valigetta da chirurgo, appartenente al proprietario, nella speranza di poterla rivendere a Parigi a buon prezzo. Nel frattempo l'avrebbero lasciata in deposito. Nel tornare, tanto per non perdere l'abitudine, svaligiarono la villa di un possidente del nord e poi rientrarono a Parigi. Oltre all'arresto di Marie, c'era una cattiva notizia per Octave. La sua fotografia era sulla prima pagina di tutti i quotidiani sin dalla vigilia. Le Matin, ieri, aveva scritto: «Si conosce ora con sicurezza assoluta uno dei principali colpevoli, quello che sparò su Cabi e lo derubò della borsa dei gioielli. È stata arrestata la sua amante, la Ville Main. Oggi, 24 gennaio, aveva diritto a 8 colonne come Poincaré. Titolo: Il mio assassino. Sottotitolo: È proprio lui. È proprio lui», esclama davanti alla fotografia di Garnier Cabi, il fattorino di banca svaligiato in Rue Ordener. Commento: sembra che oggi la giustizia sia sulla pista giusta. L'arresto della canaglia colpevole del sanguinoso attentato di Rue Ordener è solo questione di ore. Abbiamo potuto intrattenerci a lungo con Cabi e sentire direttamente da lui, per i nostri lettori, i minimi dettagli del dramma in cui ha corso il rischio di morire. All'ospedale Bichat, dove viene curato, lo troviamo in piedi che passeggia per la stanza. Un raggio di gioia gli illumina gli occhi, avanza verso di noi a passi ancora un po' pesanti, ci tende sorridendo la mano. Cabi è ormai fuori pericolo, si è riusciti ad estrarre una pallottola che si era conficcata nella clavicola sinistra. Da 3 giorni riprende progressivamente le forze, può parlare, sta per raccontarci per esteso come è stata perpetrata la selvaggia aggressione. Gli mostriamo le foto di Garnier. Subito ci dice: «È lui, è lui. L'ho riconosciuto quando Duchard, il capo della Sûreté, mi ha mostrato la foto. Non ho avuto esitazioni, ho indicato il miserabile». Cabì ci ha raccontato come in secondi indimenticabili sia riuscito a fissare nella memoria i lineamenti del suo assassino. Seguiva un racconto circostanziato dell'attentato. Anche Pimans, guardia del corpo di Cabì, e un certo Tabak, altro testimone oculare, avevano riconosciuto Octave. Così, nel ruolo di Fantomas, quest'ultimo prendeva il posto di Karoui, il che lusingava la sua vanità. In seguito, Cabì gli aggiungerà sfortunatamente un complice che non aveva niente a che fare con Rue Ordener. La nuova vedette, con una coppia del Moatin sotto braccio, si recò da Raymond, che lesse l'articolo con gravità, scorrendo le righe vendicative. Il giovane pensatore fu colto da una nausea irresistibile. Suo malgrado rivedeva il gesto di Octave nello schiacciare la mano della vittima. Non sopportava più fisicamente questo tipo di brutalità di cui, volente o nolente, si era fatto complice. Corse alla toilette del pianerottolo. «Che ti prende? Sei malato?» chiese Garnier quando tornò. «Ci hai fatto tanti discorsi sulla necessità della violenza, non è vero? Marie è stata messa dentro, esce la mia foto e tocca a te andare in crisi? Non so, vorrei rivedere Rirette». I due uomini si impegnarono in una discussione appassionata. Più che altro fu un monologo di Octave, cui Raymond rispondeva a monosillabi. No, non rompeva la solidarietà con l'impresa. No, non sconfessava niente. No, non si scoraggiava. Temeva solo che la loro azione fosse mal interpretata, non dalla massa, ben inteso. Sono tutti degli imbecilli, semmai dai vecchi amici. Per questo voleva incontrare Rirette e spiegarle il significato di ogni cosa. Non lo avevano fatto nella confusione dell'ultimo incontro. Se lei capiva, avrebbe convinto Victor, e importava a tutti loro che Victor si schierasse dalla loro parte. Dal caffè in cui si recarono venne inviato un messaggero in Rue Fessard. Raymond attese con ansia la risposta. Tutto dipendeva da Rirette. Se non veniva all'appuntamento, allora era solo al mondo con i suoi rimorsi. Né Bonneau, fisso nel suo personaggio l'implacabile giustiziere, né Octave, quell'arrabbiato, potevano capire il suo problema. Nessuna madre, nessuna fidanzata verrebbe a consolarlo, nessuna religione gli concederebbe il perdono. Infine l'uomo tornò, Rirette accettava, alle 6:30 si recarono nel luogo fissato in Rue du Temple. Raymond col batticuore, Octave orgogliosamente indifferente, tutti e due vestiti con abiti scuri, di buon taglio, con bombetta, un tandem di giovani borghesi eleganti, si piazzarono in mezzo alla strada tra la calca indifferente di schiavi vomitati dalle fabbriche, dai negozi degli uffici. Non era un imbecille. Tra quella folla ignara che li urtava, li riconobbe. Appena intravide Rirette col suo piccolo tailleur nero dal grande colletto bianco, Raymond avanzò verso di lei con la mano tesa. «Buongiorno, Madame Claudine», disse gentilmente. «È gentile da parte vostra essere venuta», aggiunse Octave, lanciando un'occhiata di complicità a Raymond. «Siete matti tutti e due», lei disse con tristezza. «Sapete benissimo che l'anarchia è sorvegliata giorno e notte. Ci lasciano in libertà solo per pedinarci. Non è per me che ho paura, ma se per causa mia vi fate arrestare...» «Nessun pericolo», disse Octave mostrando il giornale. «Hanno FIFA, ci conoscono, ma non osano». In quel momento un agente di polizia avanzò verso di loro. Octave e Raymond fecero lo stesso gesto, infilarono le mani in tasca. Rirette diventò verde. «Su, su, circolate, disturbate la circolazione», disse il rappresentante della legge. Octave e Raymond lo guardarono con sospetto. «Andate a discutere sul marciapiede», insistette il bonario rappresentante della legge. «D'accordo, ce ne andiamo», grugnì Octave. Fecero qualche passo in silenzio, ancora scossi dall'incidente. Passando davanti a un piccolo ristorante, Octave ebbe l'idea di invitarli a cena. Aveva qualche economia, annunciò. Modestamente, entrarono e si sedettero al solo tavolo libero, ben in vista. Al tavolo vicino, una giovane coppia leggeva l'articolo del Matin che li riguardava. Rilette era terrorizzata. «Non è un fatto simpatico?» disse Octave scoppiando dal ridere. «Le canaglie tremano», disse pensieroso Raymond. «È già un risultato. 100.000 franchi a chi consegnerà i banditi», diceva il giornale della tavola accanto. 100.000 franchi, è una somma per Bacco», rispose la sua compagna con forte accento vallone. Raymond sobbalzò. «Una belga!» esclamò. «Una compatriota!» E come per provare a Rilette che, forte dell'avere la coscienza a posto, poteva permettersi tutto, avviò la conversazione. «Ecco, signorina», disse accentuando il suo accento di Bruxelles, «avete detto una cosa giusta. Ho pensato anch'io spesso la stessa cosa. Anch'io vorrei approfittare di quei 100.000 franchi, ma so bene che non avrò mai questa fortuna». Garnier si batteva le cosce dal gran ridere. Non si poteva essere più buffi. Quel Raymond, quando non faceva il saccente, che buffone che era! «Fatalitas!» commentò Raymond, voltandosi fieramente verso Rilette. «Un ottimismo scientifico, ecco il nostro segreto». «Non siete prudenti», disse lei ridendo amaro. «Durerà quel che durerà», lui disse. «Questo è vero, durerà sempre quanto noi», ripeté Garnier con una grossa risata. La sera Rilette fece un racconto dettagliato a Victor, che si limitò a scuotere il capo, raccomandandole di non vederli più. Oggi c'erano stati sbirri finanche dal loro droghiere. Octave e Raymond si separarono a loro volta. Dalla partenza della giovane donna, quest'ultimo aveva abbandonato la maschera di gaiezza. La sua decisione era maturata. Con un po' di fortuna, cessando ogni attività illegale, forse sarebbe riuscito a farsi dimenticare e a ripartire da zero all'estero. Disse a Octave che nei prossimi giorni sarebbe stato molto occupato e di non contare su di lui. Octave, lasciandolo, lo trattò da infame, possidente, e gli giurò che sarebbe andato a scuoterlo la settimana dopo. Nel frattempo si sarebbe fatto a meno della sua scienza. «27 gennaio 1912. Due ecclesiastici scendono dal Parigi Lione-Marsiglia. A Lione, le mani sprofondate nelle tasche delle sottane, si recano da un avvocato nel pieno centro di questa città, in cui uno dei due si è conquistato una così temibile popolarità. Sono l'abate Bonnot e l'abate Garnier. Octave si diverte molto. Jules non ha potuto resistere al desiderio di avere notizie della donna amata. Questo ribelle organizzato deve amarla davvero, molto, per venire ad affrontare qui le squadre di spie e i battaglioni di poliziotti che lo ricercano febbrilmente. Per una mezz'ora pone domande su domande all'avvocato del foro lionese, la cui fronte si è imperlata di sudore quando i due assassini hanno rivelato la loro identità. La prigione la fa molto soffrire? In che termini parla di lui? C'è una speranza di farla uscire? L'avvocato Julien risponde con voce malsicura, sorvegliato da Garnier, il cui sguardo inquietante va dalla porta alla finestra e dalla finestra alla scrivania. Quando l'avvocato parla delle possibilità che ha Judith di cavarsela, il volto di Jules si rischiara. Quando invece passa a trattare delle imputazioni che pesano su di lei e delle difficoltà dell'arringa, il viso gli si oscura. Quasi con timidezza, il bandito lo prega di trasmettere le sue notizie alla prigioniera, di dirle che non la dimentica, che le assicura il suo affetto. No, la sua tenerezza. Bisogna fare l'impossibile per liberarla. Non era al corrente di niente, non è colpevole. La sua detenzione è un'ennesima prova dell'infamia della società. Del resto, Judith può dormire tranquilla, sarà vendicata, avrà sue notizie in tutti i giornali. Ora, nel vostro interesse, conclude Bonnot, mi giurerete di non dare l'allarme. Siete un uomo d'onore, mi basterà la vostra parola. Julien giura e i due abati se ne vanno, non senza un ultimo sguardo di rimpianto di Octave, persuaso che invece di dar del denaro per Judith a quel borghese era meglio scroccargliene. Belgio, 31 gennaio, mezzanotte. A Gand, Bonneau, Garnier e Carouy si danno da fare nel garage di Hay. Nessuna delle due vetture che ci sono accetta di mettersi in moto. Jules, sprofondato a metà sotto il cofano, si innervosisce. Il trio attende da mezz'ora, quando un rumore di passi lo fa trasalire. Estraggono le pistole. È l'autista, Marcel Maury. Octave lo spinge dentro il garage. «Mettimi subito in moto questo arnese», ordina Bonneau. L'uomo risponde qualcosa in fiammingo. Carouy conversa con lui in quella lingua. Lo zelante servitore rifiuta ostinatamente di aiutarli. La voce di Carouy si fa minacciosa. «Non si combinerà niente con questa testa di mulo», esplode Octave. «Bisogna ammazzarlo». «Non fare l'idiota», dice Jules. «Non ne vale la pena». «E allora», replica Octave, «ci ha visto. Questo basta. Pensi che si farà scrupolo di denunciarci?» Prima che Jules possa intervenire, Octave prende un ceppo e lo schiaccia con tutte le sue forze sulla testa dell'autista, che spira, vittima della sua eroica ostinazione. Il trio decide di non attardarsi ulteriormente in un luogo così mal frequentato e si dà alla fuga. Alla svolta di un viottolo incrociano un guardiano notturno, Fumbayet. Questi, insospettito dalla pesante sacca zeppa di grimaldelli di vario tipo trasportata da Octave, l'interpella. Octave si ferma, estrae il revolver e spara, poi corrono via, lasciandolo steso per il conto. Ma sono sempre a piedi. Carouy conosce un altro indirizzo di garage, anch'esso indicatogli dal suo corrispondente locale. Sono in pieno lavoro, quando le finestre della villa vicina si illuminano. Le persiane vengono aperte. Una voce d'uomo urla. Devono di nuovo darsela a gambe. Camminano fino a Wetteren, sull'Escaut. 20 buoni chilometri imprecano come carrettieri. La colazione in un albergo li conforta un po'. Poi prendono il primo treno per Anversa. Da lì raggiungono Amsterdam. In questa città, grazie a Vandenberg, possono finalmente procurarsi una vettura. I titoli non sono venduti, ne hanno tutti abbastanza delle brume del nord. Dopo 80 chilometri la vettura li molla, le bronzine si sono fuse, niente da fare. Octave un bello sferrare una pedata sul mezzo recalcitrante. Bisogna di nuovo camminare fino a una stazione ferroviaria e prendere il rapido per Parigi. Il rapido ha superato Anversa quando Jules e Octave, che sono soli in uno scompartimento, vedono tornare Carouy pallido e vacillante. Chinandosi ha fatto cadere una delle sue Browning. Il colpo è partito e gli ha passato il braccio destro. Jules manda Octave in vedetta nel corridoio e si accinge a medicare il ferito, ma Octave segnala che il controllore sta avvicinandosi. Carouy, aiutato dagli amici, riesce a rimettersi la giacca che si era appena tolto col braccio valido. Porge senza dir parole il biglietto al controllore. Questi fa il suo lavoro, ringrazia e se ne va. Non è un curioso, sopravviverà. Appena è uscito, Carouy cade lungo disteso. Si è morsicato la lingua così forte per non gridare che la bocca gli sanguina. Jules riesce a fargli una benda con un lembo di camicia. Per fortuna la pallottola è fuoriuscita. Alla fermata di Bruxelles comprano un flacone di alcol con cui si tampona la ferita. La bocca di Edouard sanguina di nuovo, ma non emette un suono. Il viaggio termina nell'incubo. All'arrivo a Parigi, il 3 febbraio, Jules e Octave, stando all'erta, scortano l'amico dallo sguardo delirante. Prendono un taxi e, malgrado i suoi principi, Jules alloggia il ferito in una stanza a Clignancourt. Parigi, 31 gennaio, ore 17. Juin, alla testa di 60 poliziotti armati di tutto punto, circonda il 24 di Rue Fessard. Non c'è via di scampo. La cosa è fatta speditamente. Poi, seguito da 10 uomini, sale al primo piano e dice il tradizionale «Aprite in nome della legge». Non gli è difficile entrare. Chinette, a piedi nudi, apre la porta. Polizia, mani in alto tutti. Le 13 persone presenti, senza contare Maud e Chinette, eseguono. Eccezione fatta per la povera Jeanne, ex Carouy, decisamente braccata dalla Sûreté, sono tutti militanti dell'anarchia, riuniti in comitato per discutere del prossimo numero. Le bambine singhiozzano, Rirette fa del suo meglio per consolarle, gli ispettori passano al setaccio l'appartamento alla ricerca di un qualcosa, un embrione, un indizio di indizio. Ancora una volta non si tralascia un cassetto, un armadio, un materasso. Infine Juin trova un paio di revolver accuratamente nascosti dietro una mensola. Un compagno ha lasciato un pacchetto l'altro giorno e doveva passare a riprenderlo. Un buon compagno, tipo Jacob e la Savantas, coi loro Luigi falsi. Victor è il primo ad essere sorpreso della scoperta di Juin. Scambia un'occhiata con Rirette. Questa volta sono fregati. Vengono portati tutti al Quai des Orfèvres. Maud e Chinette saranno affidati alla loro nonna. Gli 11 militanti sono ben presto rilasciati, gente trascurabile. Jeanne, non sapendo ormai dove andare, passerà alle idee libere a vedere se trova un compagno che le dia notizia di Duarte. Lorulò la troverà di suo gusto e le proporrà di ospitarla, non senza averle tenuto un discorso molto sentito sui pericoli di frequentare gli illegalisti. Lei ha già inteso ciò da qualche parte. Dunque sono tutti dello stesso parere, accetterà l'avanzo di Lorulò e se ne troverà molto bene, dato che resterà a lungo con lui. Ma Victor e Rirette, i pericolosi, i veri, gli autentici capi della gang, li si tiene, li si sorveglia. Si dice loro pressappoco questo, le due Browning provengono dallo svaligiamento dell'armeria di Ruela Lafayette. Questa impresa è stata commessa dai banditi in auto. Ne siamo certi, confessate quel che sapete e potremo intenderci. Juin decide di occuparsi personalmente di Victor. Juin è un uomo magro, dal lungo viso triste. Victor lo trova cortese, quasi simpatico, né malevolo né ipocrita, profondamente melanconico di dover fare il suo mestiere, ma facendolo lo stesso. Il vice capo lo intrattiene lungamente sulle idee anarchiche, su Sébastien Faure, che ammira molto, poi si mette a sospirare. Il mondo non cambierà così presto, credetemi, mormora con indicibile tristezza. Si arriva infine al vivo della questione. Vi conosco abbastanza bene, gli dice. Sarei desolato di darvi dei fastidi, che possono essere molto seri, non dubitatene. Conoscete bene questi ambienti, questi uomini che non si rassomigliano, che talvolta ce l'hanno anche con voi, penso. Sono completamente perduti, vi assicuro. Restate qui un'ora, parleremo di loro. Nessuno ne saprà mai niente e voi uscirete a testa alta. Non avrete noie, vi do la mia parola. Victor sente che il rossore della vergogna gli monta al viso. Sono certo che anche voi siete imbarazzato nel dirmi questo, dice. Ma niente affatto, dice Juin, come oppresso dalla noiosa corvée che è costretto a compiere. Insomma, se pensate di averne il diritto, fatemi arrestare. Vi chiedo solo una cosa, di farmi portare da mangiare perché ho molta fame. Il vice capo sembra sollevato. Non insiste, non per il momento. Da mangiare, dice, è un po' tardi, ma vado a vedere. Avete delle sigarette? Tenete, eccone un pacchetto. Fu così che Victor Kilbacike finì per molto tempo in prigione, anche se non era minimamente complice di Bonneau, ma al contrario aveva rischiato la vita per distogliere alcuni illegalisti dai loro piani. Più tardi, al processo in cui sarà l'accusato numero uno, si chiederà perché Lorulò non è al suo fianco. Il suo arresto fu dato in pasto ai giornali, come uno straordinario successo della polizia. I lettori pensarono di averla fatta finita con la banda Bonneau, probabilmente ormai inoffensiva, privata com'era del suo cervello. La reazione di quelli che amavano Victor fu di estrema indignazione. Chi si era tenuto sino ad allora in disparte si gettò a sua volta nella mischia selvaggia, per far fuori il maggior numero possibile di quegli sporchi francesi da cui non c'era niente da aspettarsi, verso cui non si doveva avere alcun scrupolo, poiché loro non ne avevano. Tutti cittadini soddisfatti della loro bella repubblica di poliziotti. Fu il caso del Mitte Valet, fu quello dell'inoffensivo e tisico Sudì, fu anche il caso di Raimond. Malgrado la decisione che aveva preso rafforzata da numerose visite ai Dieudonné, in cui il buon senso di Eugene lo calmava e l'accoglienza di Louise, che non aveva dimenticato il servizio reso, lo riscaldava e lo induceva con dolcezza a desiderare una vita ordinata. L'ingiustizia aveva ancora una volta dato fuoco alle polveri. Un altro gradino era stato superato nella scala della rivolta. Libri ribelli. Libri ribelli.